tutto, gli ospiti, ci sarà Elio Veltri, che è uno di quelli che prende due vitalizi dalla politica, ma è anche colui che ha fatto l'intervista report dalla quale poi Di Pietro ha avuto vari problemi. Parleremo anche delle primarie del PD dalle 8.30 alle 9 con due esponenti, Vincenzo De Luca, sindaco di Salerno, e Matteo Richetti, presidente del Consiglio regionale dell'Emilia Romagna, un bersaniano e un renziano. Ora Giornale Radio.